OK. Exty, Breslava, Čekoslovakia, batteria, Fellini. Che la pace sia con voi. O per caso avete la ventosa al posto del buco del culo, no? La prima volta che siamo qui, comunque, facciamo tutti i pezzi nostri. Guitar, Fantozzi. Oh, questo pezzo parla... Lo dedico a tutti voi, spero che vi succeda quando tornate a casa, perché parla di un incubo. Probabilmente siamo veramente cane da macello, perché... Do you like Budvar beer? Vamonos, gringos. Un po' come succedeva quando c'era la guerra. Bass guitar, Paolo Villaggio, of course. Ciao, mezzago, grazie!